chiamato, anzi per la verità prima stavo a registrarlo un pochino. Sì, non era un ascolto, era un ascolto diciamo più in su. Ho fatto un colpettino a vedere se c'era qualcuno. Aperti sono, porca miseria. Che cosa? Perché c'è una radio? Ce l'avevo io la radio, sì, ce l'avevo io. Bene. Maria. Stavo leggendo qualche cosina, ma... si è scappata la risa. Stavo leggendo qualcosa, ma... riguardo a quell'affare del messaggio. Sì, qualcosa già l'ho capita, però non al 100. Dai, magari capito come entrare nel menu, però non conosci i parametri. Vabbè, già ne parliamo un altro momento. Sì, non c'è problema. A te ci sono oggi, porca miseria. Perché? Perché? Se non si dice cosa hanno aggiungato, gli dice l'ha aggiungato. Cioè, gli dice l'ha aggiungato, di chi non l'ha aggiungato. Ma noi, sinceramente, vabbè, stavamo aggiustando una condotta lì a delle parti di Alghero per la bonifica, il consorzio di bonifica. Però più che altro è roba, adesso domani me ne vado in cava e vediamo di martellare con il caterpillar. Anche perché con questo qua era solo a guardare il saldatore e non mi passava la giornata, per dire la verità. Sì, giusto, dispositivo due cose, però niente di particolare, dai. Positivo. Certo, voluto capitare anche se cavalore, ma è tutta di un moto picco, proprio a tela valdure dai china gli atti. Ma ti dirò che a me piace, a me, vabbè, martellare in cava già, insomma, non è un lavoro impegnativo, però è mi rilascia, perché sì, chiaro, quando è più impegnativa la cosa, allora sei più attento anche a quello che stai facendo, ma quando stai martellando vai in automatico, diciamo, dai, le mani ormai conoscono già il battito e quando sente che sta per mollare allora cambi manovra e così via. Sì, ho capito, però già sei sempre tutto il giorno sotto stress e devi avere, dai, che sei abituato ormai, che sarai un po' di anni facendo, però capita che ti con l'interra e china già. Adesso mai con i mezzi nuovi un po' lo senti meno, ma con i mezzi vecchi secondo me ti dico a interra e china, va. Sì, vabbè, diciamo la verità che con questi mezzi più nuovi sei più ammortizzato, insomma i colpi ne prendi di meno. Con quelli vecchi si partiva al colpo secco e si insaccava. Infatti è un punto che oggi ti fanno lavorare, quando io ho fatto il corso, no? Mi avevano detto però voi vi dovete rifiutare a lavorare così, quello e quell'altro, e cioè, va bene, allora facciamo una cosa che io mi rifiuto, però tutta la cosa che c'è da pagare a casa viene lì, me la paga, perché tanto se io non lavoro me ne danno soldi, gli ho detto, quindi se io mi rifiuto non me ne danno soldi, e lo so, però ragionando così da forza al sudatore del lavoro a tenere i ferri vecchi, quelli non penso che lui si cambi, perché per far fare bene al meglio detto. Insomma, dai. Comunque sono riusciti in qualche maniera a dare possibilità anche a loro di cambiare i mesi e quindi stiamo bene anche noi, dai. Così dico, no, questi che fanno discorsi sulla sicurezza sul lavoro, a volte fanno ridere perché ti dicono, ma voi dovete immaginare che ci sono all'anno dei morti, sì, tutto quello che vuoi. Se però chi dice 90 euro va l'asta, se non affinché gli amici, bisogna prendere personale un prefoto per noi a fare i diretti già pagato, e poco fare i diretti, capita quando tu critichi il Galileo? Perché quello bisogna transennare, bisogna fare, ho capito. Bisogna transennare, fare, bisogna avere il caschetto, l'accordo. Ma se io sono a 4 metri, a 5 metri di altezza, no? E cerca di mi impone il caschetto, quello cadere dal cielo potrebbe essere solo, diciamo, un escremento di uccello e basta lì, in modo fondito. A chi si cade da 4 metri con un volga a terra, un caschetto di 10 non mi va di lunga. Bene, cambiato il radio, si sente. Ecco, ti ripresenta questa, perché questa è quella che a me piace, però c'è un po' di stazionale. Allora. Eppure non mi ricordo, allora, 1,5, caspita. Ma condattore non hai... per forza ce l'ha. È in cacciaviru. Aspetta, eccolo qua, vabbè. Sì, va bene. Andare. Vabbè, l'ho appena acceso anche. Questo adesso sta lavorando una soglia di 30-40 watt neanche. Sì, io ce l'ho attaccato l'accordatore, perché in pratica se attacco l'accordatore automatico mi dà 1,3 e devo stare ad accordare con, diciamo, con la T-tune, mentre se lo attacco mi dà 1. Quindi sono reso conto che non ce ne voleva accordatore, perché molto feo, ho operato bene l'antenna. Questo è tutto un altro mondo, vabbè. C'è molto cambiamento di murazione. Dal giorno alla notte, Tino. Vedi, a me mi interessa raggiungere questo obiettivo. Secondo me questo obiettivo è difficile. Addirittura, che aspetta. Guarda che questo motivo qua è difficile, sì. Io non è che voglio essere coso, però qua mi sta arrivando fortissimo. Quasi 9,40 e la radio è più bassa, ho messo il filtro. Addirittura, aspetta un attimino. La velocità deve ancora salire, sono a 3,4. Aspetta. Allora, solo quando fischio va in neanche alla L della LC. Allora, se aumento il carrier, riesce a vedere. Ora. Guarda, così si è cambiato qualcosa. È sempre uguale, ti considera che io modulazione, adesso abbiamo lo stesso apparato, la tacchetta in modulazione va alla C dell'LC. Sì, infatti, eccola qua, così è come ce l'hai tu, sì, neanche alla C arriva, vabbè, perché è millimetrica questa cosa. Poi se non arrivi bene, diciamo che non sale troppo, sale poco, vabbè, o scende troppo. Già va bene. Sì, quasi 9,35 T adesso, ho tolto l'attenuatore, ma ho tolto l'IP e 6,935 pieno, e la radio è bella come piace a te, perché io lo so come ti piace, deve essere di quelle picchi denti, e va bene, no, io guarda, vediamo un po'. Il portante bianca va a, diciamo, la tacchetta la L, in modulazione va appena dopo la C, e così vi sta dando 35-37 watt. Allora, con l'IP inserito, se fai con i picchi positivi arrivi a 9,20, mentre invece senza arrivi quasi a 9,38, 9,38. è positivo. Guarda, adesso ti faccio un scusami, adesso ti faccio un video di modulazione e te lo mando, perché così mi fai anche la comparazione da ieri a oggi. Allora, è un passaggio? Sì, allora facciamo così, che io adesso sto modulando con la prima radio, così capisco anche qual è. Dopodiché però tu continua a filmare, io devo mollare questa, accendere l'altra e cambiare mia antenna, così valuto un pochino la modulazione. Adesso lo sto facendo, aspetta. Vai tranquillo. Così vedi anche la soglia del mio auto, vedi? Guarda che sto facendo un video e vedi la soglia di come ce l'ho io. Bene, bene, ecco, vabbè, questa qua è l'altra, la seconda radio. È giusto per vedere la modulazione, come si cambia e come cambia. È giusto per sapere cosa migliorare o meno. Dai, ok, già va bene. Ti sto mandando il video, dov'è che l'altra la butti? No, vabbè, buttarla no, perché insomma, vabbè, ti spiegherò. No, sto scherzando, dai, abbiamo fatto una comparazione, cioè noterai la differenza, considera che stasera si è registrato con l'autoparlante originale, perché le sue, quelle che uso qua l'ho tolte perché le ho fatte in uno studio stamattina, quindi le ho fatte per lavoro. Quindi stai uscendo con l'autoparlante originale della, diciamo, del Kenwood. Vabbè, ma tu devi considerare anche che io non ho fatto la prova, e questo è il 60, l'MC43 magari dovrà fare la prova con l'MC43, hai capito che è un palmare, anzi adesso lo provo pure. Dammi un secondo. Vai. Beh, sarebbe fare la comparazione, la comparazione giusta sarebbe sarebbe opportuno farla con il Mac originale. Comunque guarda che ti è arrivato un video, ascoltalo, lo guardi e vedi un po' come ti trovi. Guarda, questo è il 43, saranno alla stessa distanza, quindi è per capire anche se cambia dal primo al secondo. Risulta un po' più aggressiva, risulta un po' più aggressiva, sì. Ma quale, questa? Positivo. Vabbè, ma questa è regolata col processore, col microchip magari differente da quell'altro, capito? Quindi quella è più tranquillona. Ti ho mandato il video, lo guardalo un attimino. Ehi, dammi un secondo, guarda che lo guardo. Ma tranquillo, sono qua. Vabbè. Non c'è amplificazione con la radio. Cosa, Tino? Aspetta che cambio il microfono, che questo già mi sta rodendo a schiacciarlo a mano, aspetta. Positivo. Allora, vedi, ti faccio un paragone per quanto riguarda il mio orecchio. Allora, il mio orecchio dice, uno è amplificato il microfono e l'altro no. Esatto. Hai visto il 45 com'è e l'altro? No, non ho visto tutto perché mi sono sceso le braccia. Però guardo, non pensavo che avevi provato anche la registrazione col 43. Guarda, sì, ci sono tutti e due, c'è la comparazione di tutti e due. Dopo guardo, comunque, la prima è... niente, non ce n'è, per me non ce n'è, a me piace, quando ti piace una cosa devi cercare di raggiungere quell'obiettivo lì. Hai visto, il primo step è, diciamo, quello che era mio, che mi trova a radio, e poi hai la seconda, che è quella che vorresti, diciamo, migliorare. Hai visto come ci ho regolato l'LC io? Sì, però la mia, è stabile, lo stesso, la tua è quando uso è stabile, no? Io ho la panna più alta, per la verità, anche se la abbasso. Oh. millimetriche. Ecco, così è come quella che hai tu. Sì, sì, vanno a decimi, vanno proprio a decimi, non ho capito tutta questa, diciamo, questa soglia che gli hanno fatto, diciamo, dalla casa madre, per, diciamo, questa precisione è un po' strana. Io ce l'ho così, ti mi trovo bene, guarda, qua ti ripeto, ho i picchi a 13, vedi adesso 13 e 2, 13 e 3, non di più. Aspetta che mi guardo l'altro pezzo del video. Non ti spaventare, eh? No, forse non è arrivato, ho guardato la... Ah, questa è la prima, capito? La prima, la seconda c'è un abisso, però non c'è il microfono 43, non l'hai mandato, no? Non l'hai ripreso. No, quello no, ti ho fatto solo, diciamo, il primo e il secondo fatto e poi ho mollato perché è messo in pausa. Ero sicuro di quello. Aspetta che ti faccio una chiamata. C'è il telefono vicino, sì? Certo. Dai, ti faccio una chiamata, così almeno. Ti devo chiedere una cosa. Ti sto chiamando. Vai. C'è qualcuno su bici? CQ10? C'è qualcuno su 10? Ora? Positivo. C'è nessuno qua? No, non c'è nessuno. Vabbè, come al solito. Ma chi te l'ha detto? Buonasera a tutti. Ah, io lo dico apposta, tu dico almeno qualche uno entra. Stavo rispondendo i saluti su internet. Non sei un po' solare, se non lo so. Ok, io c'è lo canterino, ok. Ti ho visto stasera con le cuffie e avevo voglia di cantare. Tu mi diso. No, io canto sempre, canto in un sito. Ma oggi ti ho visto dove ti vedo io. Sì, perché bisogna mandarle anche negli altri siti, eccetera, eccetera. E le sto mandando un po' da tutte le parti. Da. Gianni, guarda, sta cercando un palco per fare serate, Gianni, vedi se puoi fare qualcosa. Gianni, siamo a Bonnannaro con i Nomadi, il 24 aprile, vuoi venire a aprire il concerto? No, per quello c'è Bordo, di Porto Torres. lui è bravo, tu li parla. Sì, deve venire. Niente. Sì, siamo a Bonnannaro. Ma per il concerto diamo a casa di ciliegie. Davvero, allora vengo. Ma non per il concerto, per le ciliegie. Ma anche io. Anche io, ritiro la fionda, le ossa. Gianni. Via. Con che radio stai ascoltando? Con Galax. Ah, ho capito. Noti qualche differenza per caso? Segnale, fondo scala, la radio è buona. Sì, la radio non è quella del Kiko. Vabbè, ma dico, l'amplificazione ce l'ha. Ma non più di tanto, quasi niente. Addirittura, quasi niente. Prova a alzare. Ma lì è fermo, sì. Sì, guarda, adesso ho aumentato un pochino di Mickey Game. E adesso un po' c'è, là. Tu come lo senti? Dillo tu, Gabriele. Buonasera, come? Buonasera Gianni, io l'ascolto bene, l'ascolto egregiamente, forse da te un po' più lontano ci vuole un po' più di motore, dagli motore digitale, sì. No, vabbè, dai, va bene così, guarda, vedi un pochino, Gianni, si è migliorato. E io là ce l'ho così che gioco bene. Adesso mi sono infilato le cuffie, là, mi sdraio e mi metto la coperta sopra, anche per calduccio. No, sono a mezzogiorno, capito? A mezzogiorno per esterno va bene, dai. Sì, sì, da me va bene. Vedi un po' già un pochino in cuffia come l'ascolti, si è amplificato, oppure se deve fare qualcosa, se deve sollevare di diverso Sassari. Sai cosa l'abbiamo provato così? In manda. In manda? In manda l'abbiamo provato, poi in... lì va c'era bravo, dai. Dai. Salito anche negli 11 metri, c'erano brasiliani e cose, però c'era un po' di confusione, ho detto, sì, ho fatto una chiamata sul 10, detto, vediamo se c'è qualcuno, e ha risposto tutti. Sì, sì, io ero nel divano e in cucina e ho sentito la chiamata, dai. Ti ho sottocchio sotto analizzatore di spettro, sei sottocchio. Super controllato, dai, il coso, i servizi di controllo. L'esco posto dal casalingo. Sarà a me stamattina, domenica mattina volevamo metterci la cosa, ho detto passiamo a Claudio, telefoniamo a Garvino, però dice che stava male, era tutto alluvionato ed è ancora malato, ho detto proviamo a chiamare a Garvino, magari andiamo a prenderci qualcosa così ci vedevamo di persona. Però poi non si è fatto niente. Vabbè, ci sarà la prossima volta, magari sabato prossimo, sabato mattina ero impegnato io, domenica mattina Claudio non stava bene, adesso speriamo che sabato magari possa coincidere, così almeno avevo modo di sentirci di persona. Sì, e anche io ieri mattina ero mezzo incasinato, non ce la facevo ieri mattina, tutto che ero robe. Sì, sì, grazie. Sì, ma cosa, mi hai fatto vedere, sì, e poi quel coso GBL, ma cos'è, il cassone solo, che cos'è quello? Quelle sono delle video basse, ma ho trovato, diciamo, io me l'hanno cercate. Sono belle bici quelle, ma sono complete o senza altoparlanti? No, no, sono complete, sono complete. Hanno dei coni 10, quelli lì, hanno dei TDX100, da 15 pollici. E sono belle vantanose quelle lì, quelle sono belle vantanose, hanno 137 libri, un watt a un metro. Sono delle belle bici, ma dimmi una cosa, quella tipologia di casse, si bisogna lavorare con il crossover elettronico o c'hanno un crossover dedicato passivo? No, quelle sono full range, devi lavorare con un crossover elettronico esterno, perché altrimenti ti vanno in full range e tolgono solo voce, mi segui. Io a quelle lì metto i non più dei vanno dai 90 ai 100, dai 90 ai 115, dai 90 ai 115 non di più. Ah, ok. Quindi si fanno sentire, ho visto, sono di dimensioni quanto sono, più di un metro di altezza quello. Allora, completo quell'impianto lì è 1,80 m, 1,80 m con le trombe, diciamo, con l'assetore degli alti è 2,25 m. Sì, sono belle bestie, dei giocattoli, infatti mi hai mandato la foto e ho detto cavolo, quelle se le metti in aria aperta, quelle si fanno sentire, sono veramente dei bellissimi prodotti, poi sono di vecchia generazione, non è roba fatta adesso, perché adesso ci sono un sacco di mondezzina, cioè, come di dichiarati sparano potenze da paura, poi le attacchi e le sciuglie. Sì, no, quelle lì, guarda, io considero che quei sono due settori, ci sono i sub, ci sono le basse frequenze, poi ci sono le medio basse sono quelle che sono sopra i sub. Io considero che le medio basse le porto con un finale che dà 1700 watt RMS 4 ohm. Sì, ma le immagino, figurati cosa regolano con l'altoparlante. E poi di trombe cosa c'hai? Tutta la tromba naturalmente. Comunque buonasera. Chi è avanti? Ciao Rob. Ciao Gabri. La terza tentativa questa era. Buonasera comunque, Franco da Sassari. Ciao Franco, buonasera, compagnia Roberto da Sassari. Avanti Roberto, per il saluto a Franco. Ciao Franco, ben sentito, scusa forse ti ho parlato sopra nel momento che stavi parlando, comunque ben sentito, anzi ben risentito, perché sono sentito anche l'altro giorno. Andiamo a te Franco. Cappa, vai. Ho provato, la terza volta mi avete, perché eravate troppo veloci quando schiacciavate, niente di particolare, va bene dai, poi di quello che state, il discorso che ci avete, diciamo che è un mondo che non... Io non c'ho, avanti a te Calvino. No, stavamo parlando un attimo di un paio di diffusori fra, un paio di diffusori diciamo per spazi aperti e niente di particolare. Sì, vabbè, sono in pratica sono tre settori, allora sono c'è la medio bassa che è quella che è sopra che ha due coni da 15 pollici, poi c'è quella di sotto che sono i sub, le basse frequenze che hanno un cono da 18 pollici e quelli montano dei bici TMX 100 da 18 pollici però. Ok, avanti Roberto. Ma mentre di sezione alta? Di sezione alta quelli lì hanno un driver a lente acustica, ti mando la foto, un driver a lente acustica con due trombe da 3 pollici l'una, con due trombe da 3 pollici l'una a lente acustica, 150 metri ti spettina. Già le conosco, sempre con componentistica GBL. Sì, quelle sono originali, quelli lì hanno la componentistica GBL originale e quelle trombe vengono 1200 euro tutti e due, sono delle bestie, adesso sono prodotti che hanno fatto la storia, che stanno tenendo valore altissimo, quei Twitter sempre della GBL che usano nei monitor, quelle che hanno, sono diciamo circolari e hanno una specie di feritoia centrale in verticale, non so se conosci, usavano le 43, 45, 43, 50, cioè i modelli monitor, quelle azzurre che avevano di frontale azzurro, delle GBL da studio, che sono quei Twitter, lo stesso hanno fatto la storia della musica. Sì, sì, sì, ho capito quali sono, ho capito, assomigliano tipo un pezzo elettrico. C'hanno una forma di pezzo elettrico, naturalmente non c'hanno i coso, i, quei diffusori, quei segni, come si chiama, quella specie di caricamento, trombette, ma non c'hanno niente a che vedere con i pezzi elettrici, ma sono dei Twitter da paura, c'hanno delle rese, una risposta lineare, perfetta, la usano infatti nei, nei monitor, quando hanno necessità di non dare sporcizia nel, nella diffusione sonora, sono veramente dei prodotti di altissimo pregio, ecco, costavano una barca di soldi, come a livello probabilmente non proprio di quelle che hai detto tu, però si avvicinavano molto. Sì, sì, sì, quelle, no, quelle che ho io è un'altra serie, è un'altra serie che hanno la lente acustica che va verso, verso il basso, e sviluppa, sviluppa tantissimo, poi è molto pulita, molto pulita. E, niente, niente, niente, quelle lì, quelle sono belle, quelle sono belle. No, niente, io se ti potrebbe, vabbè, ne parliamo su, diciamo, però se ti potrebbe interessare c'è quel traliccio, quel traliccio. Ma non proprio il traliccio, perché ripeto ne ho uno simile io di 6 metri, 3 pezzi da 2 metri, ma visto che tu c'hai, dovresti avere almeno delle cose che potrebbero interessarmi in campo audio, ci possiamo mettere anche qualcosa d'accordo, non lo so. Stavo pensando se c'è qualche piccolo gruppo di continuità piccolino, tanto per tenermelo qua di riserva nella, nella stazione, ma non è niente di importante, una cosettina così, se c'è qualche doppione, vediamo un pochettino, ti ripeto, a me di vendere non mi interessa, ma ci abbiamo delle cose che possono essere interessanti. Interessanti per entrambi, a te ti interessa quello, a me mi potrebbe interessare qualcos'altro, ci mettiamo d'accordo, non mi piace speculare e penso che sia lo stesso discorso valido da parte tua. Facciamo riprendere un attimo da Franco, sia che sia a noi, vai Franco. No, no, no, se volete continuare tranquillamente, solo io non ci capisco niente, però mi, mi piacerebbe ascoltarvi, niente di, niente di cosa, non vi dovete... diciamo preoccupare per me, dai. Vai Davide, forse Davide si è allontanato. No, no, no, pensavo che dovevi rispondere tu, Robert, scusa. No, fra, tranquillo, tranquillo, era solo una parentesi, una parentesi quadra, basta, finito. Allora fra, com'è? Siamo così. Io sempre, stasera sempre su con questo 450, sempre solita apparecchiatura, sempre solita apparecchiatura. Franco, anche tu sei, sei sotto controllo, tramite analizzatore di spettro, vediamo un pochino come vai, fa un passaggio. Capo, l'importante è che non mi controllano i carabinieri, poi del resto non me ne frega niente. Diciamo che se sai, il Galaxy è andato a farsi fottere. Ma vai, come mai? No, no, non so, non so. Cosa è successo? Niente, stamattina stavo parlando con Gianni e si è abbassato di tensione. Pensavo che era qualcosa che era di mio, là, di qua, di corrente, invece no. È proprio il Galaxy che si è abbassato di tensione. Probabilmente era il suo alimentatore. Vabbè, l'ho tolto, non, prima che faccia più danno, l'ho tolto e l'ho messo da parte. Poi il primavera lo porto e me lo faccio aggiustare. Niente, sto usando... Ma che capiperita sto usando, quella più bella. Avanti, vabbè. Probabilmente è il gemello mio, se non sbaglio, se non mi ricordo male, che cosa è, il 4 iniziale o l'1 iniziale? No, il 6, 6. Ah, ho capito, ho capito, vabbè, sempre la stessa famiglia, dai. Padre, madre, figlio, cugino e nonna, tutta la stessa razza, dai. Sono delle, delle radio, funzionano benissimo, in assoluto le migliori per questa tipologia di emissione, vanno benissimo, sono molto adatte per fare questi tipi di lavori, dai. Ok, microfono dal rumore mi sembra. L'MC K, tutto abbinato, da qua con questo io ho preso tutto. Quando ho acquistato uno, mi ho preso tutto quanto, mi ho preso, perché in modo che, perché diciamo, abbinargli un altro microfono a questo sarebbe sarebbe una cosa, un peccato, però io ho sempre lasciato l'MC60. Guarda, in assoluto, io li ho provati tutti quanti, tranne l'MC90, vabbè, è un microfono utilizzabile per altre cose. Quello che va meglio di tutti è l'MC60. L'MC85 va bene lo stesso, però come corposità di coso, di modulazione, come naturalezza, il 60 in assoluto è migliore. Io ce li ho tutti e tre, il 50, il 60 e l'85. È quello che si adatta meglio, è sempre in assoluto il 60. Qualcuno magari con una voce meno squillante, non lo so, l'ho sentito e va bene anche l'85, c'era un amico che aveva l'85 e mi piaceva di più rispetto al 60, però dipende anche dalle corde vocali. Per quello che mi sono accorto io, per i miei gusti personali, questo è quello che va meglio, e riconfermo anche la parte tua, sta andando alla grande. Ma di nuovo Garri. È positivo, no, io sto usando tutt'altro che microfoni Kenwood. Tutt'altro che microfono, che microfono Kenwood, è una cosa più o meno modificata da me, e va bene, credo che vada bene, che non ci siano problemi. Riprendi Franco. Va bene Gabriele, non hai problemi, tu hai un bel microfono quello, io ti ascolto al 100%, molto bene ti ascolto. Sì, guarda, io li ho avuti tutti e tre, li ho avuti, l'MC80, 80 e 85, e gli altri me li ho venduti perché tutti quanti mi dicevano che il migliore era questo qua, e allora mi sono lasciato questo, ma da tanto tempo fa, da tanti anni fa, e poi me li avevo anche rivenduti e poi ricomprati, figurati. Però mi hanno detto sempre che con il K era sempre il migliore, era l'MC60, perché mi ascoltavano meglio nel radio, di tutto. Va bene, poi vabbè. K, Gavino, mi confermi quello dell'altro giorno, lo Shure o che cosa? Sì, sempre lo Shure con l'MP4, con la modifica che gli ho fatto. No, la grande, come piace a me, bella modulazione, Alberto Lupo, non so se tu l'hai conosciuto, forse sei troppo giovane, magari Franco sì, che mi penso che sia più o meno coetaneo mio, non so se sia più grande o più piccolo, però probabilmente li ha superati i 50, almeno, se non sbaglio, e c'è una voce bella piena, bella grossa, da fare pubblicità. Vai Franco. Ti devo deludere, vabbè. Sono morto, ma morto più grande di te. Capo. Io, vabbè, in pensione sono 5 anni e spero di durarci almeno sino. Ma non sono buccioni per arrivare a 100, ma anche 90 mi va bene. L'importante è stare sani e non dare fastidio a nessuno e godersi bene la vita serena e tranquilli. Poi se ci deve venire qualche colpo che ci venga quando siamo addormentati e basta, non sentiamo dolore. Vai Gabri. È positivo, potrebbe essere allora Roberto è più piccolo di mio padre, è Franco e ha 6 anni più di mio padre, quindi io ne compio 40, quindi è tutto così. Sto per entrare negli anta, riprendi fra. E io ho l'età di tuo padre. Piano piano. Piano piano arriviamo tutti quanti, sperando sempre di andare sempre più lontano. Mi è sembrato Gianni, tu sì. Ehi, buonasera a tutti, dai. Ho detto, io ho l'età del padre di Gavino. Vedi, più o meno siamo tutti, non vicino, ma insomma, il più lontano sono io, sono fino adesso. Va bene, riprendi. Saluto a Gianni, ciao Gianni, ben sentito, ti sento un pochettino muscio o sei sdraiato già? No, sono sdraiato. Sembravi un infermo, dico, quando c'avevi problemi che non ti potevi muovere, dai. Riprendi Gavi. E sono così, perché ho preso una caduta brutta. Uru. Cioè, fa male tutto il fianco, ma tutto a marmo, allucinante, guarda. Cacchio, essendo già, tu già sei pesantuccio, se cadi ti puoi fare molto più male, male di un altro più leggerino, devi stare attento, cosa hai scivolato? No, guarda, non lo so nemmeno io, sono andato in pasticceria a comprare le paste, ho preso, mi ho messo il borsello sopra il collo, ho preso le paste, mi sono girato, come sono caduto, adesso non capisco se ho inciampato un piede con l'altro o che cosa mi sia successo. A pavimento scivoloso, cioè? No, no, non sono scivolato. Ho paura o che mi abbia mollato la gamba, può succedere dopo che l'operazione, i muscoli sono un po' indeboliti, anche se si sono ripresi quasi al 100%, però si sono indeboliti, magari mi ha ceduto la gamba. Fatti controllare, sei solo livido, ematoma, cioè tra qualche giorno metti ghiaccio e piano piano si attenua l'ematoma, continuamente lo metti ogni paio d'ore, 10 minuti te l'appoggi, quei ghiaccioli da coso, da freezer, te li metti, te li sostituisci, te li avvolgi in uno strofinaccio, qualcosa in modo che non ti ustioni e te l'appoggi ed è salutare per l'ematoma, per il coagulo. Ok, Gabri, riprendi. Ma oggi ti è successo? Ieri c'avevo mio nipote a casa che compiva gli anni e adesso vado e li compro le paste. Cazzo, poi la voce va. Porca miseria. Ma ti fa male mai qualche dolore oppure solo livido e dolore, diciamo, dolore del colpo, senza avere altri dolori che ti ha preso mai alla schiena, al collo, queste cose qua? Allora, livido non ne ho. Ho la parte di dietro della costola che mi fa male. La parte posteriore, dai, della costola, come ho sbattuto al marmo del bancone che c'era nella pasticceria. Però vai, fatti controllare qualcosa, se domani ti consenti, domani hai ancora il dolore, da farti vedere, perché con l'operazione che hai avuto non è da giocare. No, ma non c'entra nulla la gamba non c'ha niente, è praticamente la costola che mi fa male, e magari il colpo, adesso sto mettendo una pomata, sto mettendo un nodol, quella fatta per i traumi. Guarda un po' a vedere se ti passa, quindi va a farti controllare, perché le cadute così sono un po' un problema, Visto che stavate parlando di muri, di corsi, ho detto, meno male che ci sono ancora, se sbattevo la testa a quel mano sarei crepato. Purtroppo non c'è da giocare, Migia. Non c'è da giocare con le cadute, perché da giù di mezzo mi si dà. Le cadute più brutte sono quelle stupide. Infatti la fermo praticamente, mi sono girato per andarmene, dovevo che sono da giù. Adesso non so se come mi sono girato, mi sono incrociato i piedi, non lo so cosa sia successo, ma non lo spiego. Qui ci sono i battiti, ma com'è non è rovinato i battiti? Oh, integre, le passe sono arrivate integre, le ho salvate. L'importante è quello già. Ebbene, se con la crema sarebbero rovinate. È positivo. Riprendi, Roberto. Io 2 anni fa ho preso una caduta, ma proprio da rischiare di farmi male, so cadere perché gioco da pallone, sa cadere. Sono andato, era d'estate, in officina, si stava chiudendo la porta della cabina di verniciatura, ho fatto uno scatto, cioè presente tipo Fantuzzi che vedi le gambe volare in aria, mi sono visto le gambe in aria perché la scivolo c'era della polverina in terra, nel pavimento, mi sono alzato perché quando fa uno scatto mi sono proprio alzato in aria, capovolto, per salvare la testa mi sono irrigidito e ho portato la schiena un pochettino in avanti, ho colpo sulla schiena per cercare di salvare il collo e la testa, sono stato una settimana a dolore, ma tanto mi ha fatto male, una cosa allucinante, adesso magari se succedeva 10 anni fa magari l'avrei subito di bene, ma mi ha fatto un male, ho sentito tutti gli organi interni scombussolarsi, ma sono caduto così male, una caduta stupida, scarpe leggere avevo e stive, proprio volato con le strampate in aria. Allora Robe, io un giorno vado a fare le patelle, un ikaku, la gioca marina, come la volete chiamare, e c'avevo quei calzari, quelli che si mettono nella muta, no, perché ero sulle rusce, ho trovato i calzari, ma non è la prima volta che andavo, io più o meno, diciamo che le ho sempre fatte. arriva questo colpo di mare, arriva questo, perché c'era un po' di mare, arriva questo colpo di mare, Robert mi prende tipo con tutti i un calcio dietro il ginocchio, mi prende lì, scivolo sulla roccia e mi sbatto lo sacro in una plana, sai come sono le rocce, hanno questi buchi, hanno i buchi, no? E mi sbatto lo sacro in una plana e non mi sei natura è questo buco. Ma tu ci credi che dal giorno, io ancora oggi, mi fa male sempre quel punto dell'osso sacro? Ci credo, già lo so. Io ho un piede così, il pollicione del piede, giocando in spiaggia, ho preso un cantone da pallone, in spiaggia c'è una pietra, mai più guarito, deve avere qualche microfrattura, non lo so, che non ti guarisce mai, da quando ero ragazzino, mamma mia. E perché tu, visto che sei ragazzo del portatore, non sei mai strampato nel moro, nello scivolo, per togliere il gommone? Lascia perdere, io lì sono caduto anche a mare, io di lì per poco perdo la macchina, per poco, meno male che c'era, che siamo riusciti a frenarla, a tenerla ferma e mi ha tirato fuori un furgone, perché altrimenti perdo la macchina io lì. È un casino quello scivolo, ma quella non è negligenza nostra, quello è l'autorità portuale che deve prendere, qualche volta prende, non costa niente, con una pulivator, prendere e pulire lì, basta che li togli quell'erbetta, quei subito che si invasi, e lì la macchina scende bene, però siccome non gli frega niente a nessuno lì, io di lì ho visto macchine con le cofanate dietro, io ho visto una 19, una Renault 19 di quella Yamaha 2004, quello che vuoi che sia, col culo a bagno, cioè va l'acqua dentro lo sportello di dietro. Un amico mio di lì è scivolato, io sono caduto tante volte, però ci stavo attento, proprio non allungavo mai le gambe più di mezzo metro, è scivolato e ci ha messo il piede su una bottiglia, un coccio di bottiglia, ci ha messo tutto l'umido, una cosa, tu hai il sangue, perché ha detto bene, c'è quell'erbetta puzzinosa, poi ci sono quelli che buttano qualche goccia di carburante quando c'è il gommone, qualcosa dal motore, cade sempre e si mischia tutto quanto, diventa, ha preso dal sapone. Vai fra. Sì, è un attimo cadere e fare. Io ho avuto uno sfilamento dei tendini al piede e adesso in questo periodo mi fa molto male, è un casino. Però già, io se ne è preso dietro alle costole mi sarei fatto controllare, perché le costole sono pericolose. Avanti già. Ho fatto prove di respirazione, respiro bene. Se fosse stata compresa verso i polmoni non avrei respirato bene. Già adesso io le cose. Ho fatto 17 anni di servizio ambulanza, quindi ho provato a... non faccio sforzo respirando, capito? Quindi non c'ho niente, è sicuramente il colpo che ho preso. Se è così sì. Ok, dai, riprendi i capelli, io mi allontano un attimino e vado in bagno. Vai tranquillo. No vabbè, se solo il colpo già te ne accorgi, perché è vero, le prove di respirazione le fai, ma devi farla con le braccia sollevate e dando ossigeno forte, facendo respiri profondi, se non c'è niente vuol dire che è solo il colpo. Almeno io colpi ne prendo tanti così, lavorando e ne prendo tanti. Sì, Robert, io di lì, guarda, ti posso dire che la mia famiglia è una famiglia di pescatori, quindi al porto ci ho sempre bazzicato, io ho visto tanti, di cui ho avuto anche la barca, guarda, io ho visto tante esperienze strane, gente sbattendo la testa a terra, ma zoccu, è strano che nessuno abbia mai fatto causa, anche perché... Caspita, se cadi male in quello scaletto, poi è un casino, e non ti fai male, mi. Sì, già lo so, ma io ho visto il Porto Torre dalla parte di Nuvuli, per cui siamo salvato le buone anime, dove c'era il messaggio. Un fiorino ci è caduto in mare, davanti a me, si è riuscito a tenere sulle cime di un coso, di un peschereccio, c'era piccolino lì attaccato, è riuscito a tenerlo in equilibrio, infatti per tirarlo fuori sono venuti con le gru, ma io ho visto di tutti i colori. Io personalmente ci sono caduto dentro il porto, quando c'avevo la barca, stavo saltando per la mandronia per non mettere la scaletta, la passerella, ero in pantaloncini, d'estate ero, vado a saltare e mi si aggancia la scarpa alla colonnina dove c'era il rubinetto, sono caduto a faccia a terra, meno male ho messo la mano per salvarmi la faccia, se no mi ammazzo, se no mi tronco in due, ci sono caduto dritto dritto in acqua e con la mano sono riuscito a schivare il motore e a cadere dritto dritto. Allora d'estate non avevo né cambio né niente per cambiarmi, ma giù butto una cerata che c'aveva dentro il coso, c'era il tipo, l'amico del pontile, mi ha detto ci sei caduto. Io penso che sarò durato 3 secondi in acqua, come sono sceso, boom, un fuetto, ho saltato fuori, mi sono bagnato, c'avevo tutti i documenti, eccetera, ma male il cellulare l'avevo appoggiato, ti sono guardato dritto dritto, proprio un tuffo in mare. Però una cosa è tu fare sapendo, un'altra cosa è quando stai saltando ti si blocca il piede e cadi a faccia a terra, prima non mi ammazzo il giorno. Lo sai, è caduto così, brichi vuoi, se fai chi vuole, ma non mi sembra che vuoi all'acqua, perché ti fa impressione. È vero, è vero, è vero, quando lui sembra che voli, capita, pare che vai l'ari. Noi ci vado io, diciamo come i cugini da bambini, ci prendevamo, ce ne eravamo a bordo, da mio padre, da mio zio, ci facevamo il bagno al porto lì, non parlavo la pescheccia, la cosa, ne buffo. Però rimanevi sempre con l'altro là, chi va là, chi ha rumore, mi sono fai scimani, burrone. Non lo so, di tutto trovi di lì. Vai Gianni. Auguria, che entrano anche le ricciole. Una volta stavo pescando, cavolo, c'era questa ricciola, abbiamo messo un mugine vivo, mi andava attorno, capì, ma non si lo mangiava, mi andava attorno e avevo messo gli ami sopra, li avevo messo, in modo che scodinzolava bene, mi andava attorno, li girava attorno, ma manna, ma si era abbigliata a chi si accatta, ero pronto a strappare, ma non se l'ha mangiato, li girava attorno, ma non se lo toccava. No, non le mangiavo, maledizioni. E poi che fuba la ricciola, la ricciola è un pesce di vento, la ricciola è un pesce di vento che mangia le sue esigenze, non è che mangia, non è che il petto di mani si lo mangia. La ricciola c'è anche un periodo per pescarla, perché se la ricciola d'estate di notte, la ricciola è un pesce anche di luna, la ricciola se è stata di notte con molta, con la luna piena, con la luna crescente, diciamo è stata in giro di giorno non mangio, mentre se la trovi in una calante può darsi che la prendi, però se la trovi in una crescente, ricciola non mangia niente, ma io queste cose più o meno già le so, avanti già. Che ci mancherebbe, che siamo in barracuda, che se passiamo da fianco al mondo non abbiamo di barracuda, ogni auccio pieno, facevano il circolo, i pesci, vedevi i pesci saltavano, ci ripigliavano al volo, saltavano dall'acqua al volo. Ma se no non me l'ho mangiato totanare dalla barca e pesci serra, cioè non ho mangiato, tagliato il pesce serra, la vele totanare comprate a Sassari da Torre di 15 euro l'una, di TD. Capita a cambiarne anche 4, 5, 6 a serata, il pesce serra è un casino, solo che ce n'è, non al porto, però il pesce serra basta che vai di lì diciamo all'ancora dove fanno la fonda le petroliere. Quindi ce ne sono tanti. Io andavo quando il periodo di Natale, che li prendi a mezzaluna, diciamo alle 13.30, alle 14 calamari, che li prendi anche di giorno in quel periodo, diciamo da metà dicembre fino a metà gennaio li prendi anche di giorno lì, perché poi quando passa, poi quando cala il sole non ne prendi più neanche con la luce. diciamo volo ancora a vento, con ancora a vento, con il paracadute andavo a struscio, no? Con le sottanelle a 100 grammi, e li prendevo, facevo 3 kg a sera, a volte niente, a volte ne ho fatto anche 6 kg, perché dalle 3 e mezzo, dalle 3 e mezzo alle 5 e mezzo fai mattana, cioè se li sai pescare li prendi. E si serra di lì ce n'è tantissimi. Beh, Robert, tu sei il portatore, probabilmente hai conosciuto Maurizio Usai, hai conosciuto almeno di no. Sì, di brutto, ho conosciuto anche il figlio. Allora, io ho una fotografia di quell'uomo, quello era famoso, dicevamo sempre, cacciatore di squali. C'aveva una barca, non so se era la sua cosa, e c'è una fotografia dove c'è lui. Tu dove cosa c'erano? Non squali giganti, squali di, il massimo e più grande sarà stato un paio di metri. C'erano delle verdesche, delle cose, diciamo la tipologia della verdesca, aveva una barca piena di squali. Ci sono le fotografie di quelli prese di lì davanti a Barai, stiamo parlando negli anni 90 questa roba qua, figurati cosa può girare in quel mare lì. Sì, ebbe, gli squali, guarda che nel Golfo dell'Asinara il verdesco è pieno, il Golfo dell'Asinara di verdesche che mangiano plankton, è pieno, non, diciamo che è l'umano che non sono carnivore, quindi non dovrebbero, però non bisogna mai fidarsi, secondo me non dovrebbero aggredire l'uomo, però solo a vederti la pinna, secondo me a 20 metri anche da sopra la barca, anche se tu sei anche preso, io essendo sopra la barca e mi vedo una pinna così a 20 metri io avrei già paura, perché sotto qua non sai cosa c'è, quindi vedi tu a pescarle o a tirarle su. Poi chi dice che le affronta, che non ha paura, che non è, io non ci credo, perché se tu sei in acqua, ti stai facendo il bagno e ti vedi una pinna di squalo o di verdesca che al momento non sai neanche se è un delfino o chissà cosa, secondo me a me mi viene un infarto, mi ti bruciano i bocchi, io muoio, mi viene una paralisi o qualcosa del genere. Un altro essere pericoloso in mare è la murena è un'altra bestia maledetta, è buona impanata e fritta, però in mare è maledetta. Lo prendi, Franco? Certo. Ma perché qua cosa hanno pensato? Lo squali qua vicino, non lo penso. Sì, capita, avrà. È una vita di solo squali qua fuori dalla Sinara. Non sono squali, sono verdesche, non mangiano platino, però è una vita che ci sono. No, non ho mai sentito proprio. E neanche qua, diciamo, non ci sono mai avvicinati qua, non ho mai visto una pinna fuori dall'acqua là. No, Platamona si è avvistata qualcosa, ai tetti di qualcosa largo si è avvistata. Aspetta, arriva